serata, ben ritrovati su Rock FM. Intorno alle ore 20 da lunedì al venerdì inizia l'appuntamento per tutti gli amanti, e spero siano tanti, dell'hard rock e dell'heavy metal, Hard and Heavy su Rock FM con Marco Gravelli, con il nostro autore Simone, che saluto e ringrazio come sempre, e lo sponsor Mariposa Dischi, Corso Lodi numero 1 qua a Milano. A proposito di Mariposa, questo sabato 29 settembre, il giorno prima della loro esibizione a Milano, quindi sabato 29 settembre, ci sarà una singing session, quindi un acustico, un cantato e anche un meet and greet con tutti coloro che vogliono incontrare la formazione olandese degli After Forever. Tra parentesi c'è una bella cantante che sarà sicuramente presente, visto che cantano, fanno questa session acustica più il meet and greet. Se avete occasione di avere in archivio album degli After Forever, volete acquistare quello nuovo, quindi ricordate, da Mariposa, Corso Lodi numero 1, alle ore 18 di sabato 29 settembre. E noi iniziamo come sempre ricordando anche il nostro sito www.radiorockfm.com. se perdete una puntata di Hard and Heavy, non c'è problema, ve la riascoltate tramite proprio il nostro sito, andate a controllare, c'è questa opportunità. Iniziamo invece con l'appuntamento di questa sera, con un vinile, con un gruppo, una band americana. Hanno proposto perlomeno 3 album di buon glam rock. Si chiamavano London, gruppo creato nel 78 dal chitarrista Lizzy Gray insieme a Blackie Lowells, che successivamente fondò la formazione degli Wasp. Per completare la lineup ingaggiarono il bassista Nicky Six, proprio lui, che poi diventò famoso con i Motley Crue, il batterista Danny Rage, mentre per il ruolo di cantante fu scelto Michael White. La band suona alcuni show, ma presto, a causa di attriti interni, la band si scioglie nell'81. Ed è poi nell'84, con l'affermarsi del glam rock, che Gray, il chitarrista, decide di riformare la band con una nuova lineup, nella quale militò per un breve periodo anche Slash alla chitarra. Quindi grossi nomi che sono ruotati intorno a questi London. L'esordio però su vinile arriva nell'85 con questo album Non Stop Rock, seguito nell'86 da Don't Cry Wolf. Nonostante tutto, il successo non arriva, pertanto nell'88 il leader e fondatore Gray lascia la band. Band che continua comunque ad esistere. Nel 1990 esce il terzo lavoro, Playa the Rock, e contemporaneamente cambiano il nome in Deep Priest, o Deep Priest meglio dire, che derivava dal nome del cantante Nadir Priest. Segue un tour e poi il definitivo scioglimento nel 1991. Lo scorso anno però il cantante Nadir ha riformato di nuovo la band con il nome di New London. Si parla della registrazione di un nuovo quarto album, a tutt'oggi non pubblicato. Ma facciamo un passo indietro da questo loro primo lavoro, sicuramente il più bello. Vado a proporvi il motivo dal titolo It's a Rock and Roll, da Non Stop Rock in London. Rock and roll, rock and roll. dal loro primo album, abbastanza simile come sound ai Motley Crue, glam rock, non era niente male questo lavoro. Il pezzo era It's Rock and Roll per la formazione in questione, quella dei London. Con loro abbiamo aperto l'appuntamento di questa sera di Hard and Heavy. Andiamo invece al classico metal tedesco con i Tyrant Pace, questa band che arriva dalla Germania e che vedeva alla voce la presenza all'epoca di quest'album, aveva 22 anni, il cantante Ralph Schippers aveva ancora i capelli lunghi. Poi è diventato famoso per la sua militanza nei primi tre album Gamma Ray, per essere stato vicinissimo a sostituire Rob Halford nei Judas Priest, e attualmente alla ribalta con il suo gruppo chiamato Primal Fear, con i quali ha appena pubblicato un nuovo album. Inoltre il batterista di questa band, ripeto, Tyrant Pace, Edgar Patrick, sarebbe poi entrato nei Bonfire. Per quanto riguarda la formazione, nascono nell'83, dopo un demo arrivano all'esordio nell'anno seguente con l'album Eye to Eye. Segue un cambio di line-up con la sostituzione del chitarrista e quindi nel 1985 esce l'album più importante, Long Live Metal, seguito un anno dopo dal terzo Watching You. Con la fuoriuscita appunto di Ralph alla voce, per entrare nei Gamma Ray, il gruppo si scioglie fino alla fine degli anni 90, quando torna con una nuova line-up, nuovo cantante, con il quale incidono un quarto album. Ma dal citato lavoro, sicuramente quello più bello, cioè appunto Long Live Metal, andiamo a proporre il brano che apre la B-side di questo lavoro, cioè Shockwaves, Tyrant Pace. Destroyer, destroyer, let's go. intitola proprio così, Shockwaves. Heavy metal allo stato puro, come una volta si suonava sia in America sia soprattutto in Germania. Shockwaves, dall'album più bello dei Tyrant Pace, Long Live Metal 1985, abbiamo appunto ascoltato Shockwaves. Ritorniamo invece alle cose più recenti, ve lo citavo in apertura di programma, e ascolteremo proprio gli olandesi After Forever, che suoneranno il 29 di settembre all'Alcatraz di Milano in occasione, diciamo, della pubblicazione del loro album uscito a metà aprile. Gruppo arriva da Olanda, vede alla voce la brava e bella Floor Jansen. Dall'album sono già stati pubblicati ben 3 singoli. Riguardo il lavoro, è disponibile dallo scorso weekend anche in versione DVD con i 3 video tratti da alcune esibizioni live durante i vari festival della scorsa estate. E vi ricordo che alle ore 18 saranno proprio in una singing session, e per a incontrare i fans nel negozio di Mariposa Dischi, il nostro sponsor, situato in Corso Lodi al numero 1. Quindi potete andarli a incontrare direttamente, vederli in questa singing session acustica e poi fare foto, autografi vari. Quindi questi sono gli After Forever che andiamo ad ascoltare proprio con quello che è l'ultimo singolo pubblicato dall'album. Il pezzo si intitola Equally Destructive, dall'omonimo album After Forever. Nuovo singolo dall'album omonimo After Forever dall'Olanda, Equally Destructive. Sabato 27 all'Alcatraz di Milano, però alle ore 18 saranno presenti per incontrare i fan nel negozio proprio del nostro sponsor Mariposa Dischi, Corso Lodi numero 1 qua a Milano. Dagli After Forever ad una chicca che vado a proporvi questa sera dal vinile dei Girl, gruppo maschile comunque, anche se si chiamano Girl, è una band inglese, precisamente di Londra, che proponevano del buon hard rock, band dalla quale sono emersi il cantante Phil Lewis, che militerà successivamente negli LA Guns, e il chitarrista Phil Collen, che successivamente entrò nei Def Leppard. Alle spalle hanno tre album, l'esordio, quello dal quale andremo a proporre la canzone, si intitolava Sheer Greed, che arrivò nel 1980, data di pubblicazione, al numero 33 nelle classifiche inglesi. Il secondo, Wasted Youth, andò meno bene. Il terzo si intitolava Killing Time, che verrà pubblicato successivamente allo scioglimento della band. Il primo brano dall'album Sheer Greed è un motivo che poi è stato coverizzato anche dagli LA Guns, perché abbiamo detto che il cantante Phil Lewis entrò negli LA Guns, motivo dal titolo Hollywood Tease. Questa è la versione originale dei Girl. Hollywood Tease, la versione originale dei Girl, dal loro primo album. E chiudiamo un po' questa parte legata al passato che andiamo a proporre spesso nel nostro appuntamento consueto serale di Hard and Heavy, con le novità che arriveranno tra breve, con un'altra band importante della New Wave of British Heavy Metal, band che comunque è ancora attiva. Il loro nome è Diamond Head. Il brano che ascolteremo è quello famoso Am I Evil, che i Metallica spesso presentano, propongono dal vivo, l'hanno anche coverizzato. Fa parte del loro primo album Lightning to the Nations, che se avete la prima tiratura di 1000 copie è rarissima, costa e vale un sacco, la copertina è tutta bianca, per questo viene definito anche il White Album dei Diamond Head. Dunque, la band nasce nel lontano 1976, creata dal chitarrista Brian Tetler, che è ancora l'unico membro attuale originale del gruppo, e dal batterista Duncan Scott, quando ancora erano studenti. Come nome, il nome Diamond Head deriva da un poster della copertina del disco di Phil Manzanera, componente dei Roxy Music, che il chitarrista appunto aveva in camera sua. Completata la formazione con l'ingresso del cantante Sam Harris e di un bassista, registrano un demo nel 78. L'album, il citato Life into the Nation, arriva nel 79 autoprodotto. Successivamente ottengono un contratto con la MCA, che ne pubblica dapprima una ristampa, e quindi nell'82 il secondo album, Borrowed Time, che arrivò al 12° posto in Inghilterra. Il terzo album, Canterbury, in questo album se ne va il batterista cofondatore, il cambio di bassista, e c'è anche l'ingresso di un tastierista. Scarse vendite però, e quindi la band si scioglie nell'85, si riforma nel 91 sempre con il chitarrista e con il cantante, e nel 93 pubblicano un nuovo album. Passa un anno, la band si riscioglie e si riforma nel 2002. Questa è un po' la vita, la storia, per pubblicare un nuovo lavoro uscito nel 2005. Però tre mesi fa è uscito un nuovo album, What's in Your Head, nel quale l'unico membro storico è il fondatore Tetler, il chitarrista. Vi lascio quindi e chiudiamo questa prima parte di Hard and Heavy con questo classico motivo che dura qualcosa come 7 minuti, Am I Evil, la versione originale Diamond Head. Di Hard and Heavy su Rock FM insieme alla voce di Marco Garavelli, insieme a questa band che arriva direttamente dalla Svezia, The Puddles. Settimana scorsa vi ho proposto il singolo estratto da questo loro secondo album, Sweet Trade, questo l'album. Oggi abbiamo ascoltato Street of Fire per questa band di hard rock nata come Project nel 2005, visto che in lineup abbiamo il cantante Jacob Samuel e il chitarrista Pontus Norkeren, che militano anche in un'altra band, i The Ring, mentre il bassista aveva militato anche nei Lion Share. La prossima band che vi presento si chiamano Manitou, heavy metal che arriva direttamente dalla Finlandia, gruppo di 5 elementi. In lineup c'è da segnalare il chitarrista che milita anche nei più celebri Omnium Gatherum. Gruppo risale al 1997, dopo diversi demo riesce ad arrivare all'esordio solo nel 2004 con l'album The Mad Moon Rising, che ottiene delle buone recensioni e che gli permette di andare in tour a supporto di Paul Dienno. Il successivo Deadlock è uscito 2 anni fa. Questo nuovo si intitola No Signs of Wisdom ed è arrivato nei negozi nel mese di agosto. 9 sono le tracce, andiamo ad ascoltare il brano che apre il lavoro, In This Indolence, Manitou. I am the boss. Appuntamento come prassi ormai immancabile delle Metal News, preparate dal nostro autore Simone. Si parla degli Eighth Sphere. Il cantante Jakob Bredal della band danese ha lasciato la band. Inoltre le brutte notizie non finiscono qui, dato che il gruppo ha dovuto anche cancellare il tour di supporto ai Dimmu Borgir, che li avrebbe portati in Italia anche nella metà del mese di ottobre. I Rage invece stanno preparando il nuovo album dal titolo Craved in Stone, e a detta del chitarrista Victor Smolsky il sound sarà più grezzo, molto potente, e non verrà utilizzata, come nell'ultimo lavoro, una orchestra. L'uscita è prevista per l'inizio del 2008. Uscito di recente l'album di debutto per la band tedesca dei Ride the Sky del batterista Uli Kusch e del cantante dei Tears of Anger Bjorn Jansson, e già c'è una variazione di formazione. Il tastierista ha lasciato il gruppo per motivi personali, al suo posto è entrato Henning Ranseth. Parliamo dei Threshold. Uscirà a novembre il best of della celebre prog metal band inglese, si intitolerà The Ravage of the Time. Sarà un doppio CD dove il primo disco conterrà 11 brani, il secondo 9, per una durata totale di circa 140 minuti. Demon Hunter. Uscirà il 6 novembre il nuovo album per la band americana, il titolo è Storm of the Gates of Hell, ci saranno 12 brani. Parliamo di una nota curiosa dei Rhapsody of Fire, una curiosità legata al loro cantante. Infatti Fabio Lione, non so se lo sapete, se guardate un po', se vi capita di vedere questi giochi serali nelle varie reti televisive, il gioco è 1 contro 100, ha partecipato, condotto da Amadeus, ha partecipato proprio Fabio Lione. Amadeus ha menzionato Fabio, che è stato inquadrato, hanno parlato, come suo amico cantante dei Rhapsody. Per la cronaca, Fabio ha anche sbagliato la risposta ed è stato eliminato. Vabbè, cose che capitano. Parliamo dei Carcass. Il chitarrista svedese Michael Emmott degli Arch Enemy, che in passato ha militato negli inglesi Carcass, ha recentemente rivelato che la band potrebbe in futuro riunirsi per un tour. Già Emmott, Jeff Walzer e Bill Steer si sono incontrati in differenti occasioni per suonare alcuni brani. Per quanto riguarda Emmott e i suoi Arch Enemy, escono questa settimana il nuovo 7° album Rise of the Tyrant, album anticipato dal singolo Revolution Begins, nel quale vi è anche una traccia che farà parte dell'album e che andiamo a proporre ed ascoltare proprio questa sera in Hard and Heavy. Si intitola Blood of Your Hands, Arch Enemy. Remember, save the fathers. Questo farà parte del loro album e anche di questo singolo che si intitola Revolution Begins, Arch Enemy. Ricordiamo che la voce è femminile, eh? Sì, perché alcuni magari lo sanno benissimo, però altri potrebbero dire: caspita che voce, invece quest'ugola è proprio femminile. Andiamo in Italia, lo faccio volentieri con l'album nuovo della Strana Officina, che già prima dell'estate abbiamo proposto e presentato in un'intervista telefonica. Storica band italiana da sempre legata al nome Cappanera, gruppo che nasce alla fine degli anni 70, effettua il suo esordio con un EP nell'84, mentre per il primo album bisogna aspettare il 1988 con Rock and Roll Prisoners, album che li vedeva cantare in inglese e non più in italiano come in principio. Gruppo che si sciolse poco, diciamo, a metà degli anni 90 a causa purtroppo della scomparsa dei due membri fondatori, ossia Fabio Roberto Cappanera, in un incidente stradale. La band si è riformata anche lo scorso anno per volontà di Dario, nipote del chitarrista, e Rolando, figlio del batterista, tanto da suonare il Gods of Metal come headliner nella giornata interamente dedicata ai gruppi italiani. Questa sorta di reunion ha portato a un tour e alla realizzazione di un album, questo lavoro che si intitola The Faith, che contiene 12 brani cantati in inglese che risalgono ai lavori passati, ma per l'occasione risuonati completamente, più Autostrada dei Sogni, tratta dal loro primo EP, più due inediti, cioè Profumo di Puttana e Officina. Noi andiamo ad ascoltare il brano Metal Brigade per la formazione appunto della Strana Officina. Brigade con la strana officina che abbiamo ritrovato questa sera in Arden Devi, che entra negli ultimi 10 minuti a nostra disposizione. Ci trasferiamo dall'Italia alla Polonia. Proprio dalla Polonia arriva questo gruppo composto da 4 elementi, nato nel 2001, creato dal cantante e bassista Mariusz Duda. In principio si trattava di una project band, dato che tutti i musicisti militavano in altre formazioni. Alla fin fine questi Riverside diventano una priorità per tutti e quindi diventa una band effettiva. Dopo un paio di concerti a Varsavia incidono un demo nel 2003 che gli permette di ottenere un contratto con l'etichetta Inside Out. Cominciano a comporre le canzoni dell'album, che già pensano di suddividere in 3 lavori, un concept suddiviso in 3 lavori. L'esordio si intitola Out of Myself, arriva nel 2004 e viene votato da un'importante rivista metal come miglior album d'esordio del 2004. La seconda parte del concept è uscito nel 2005 col titolo di Second Life Syndrome. Alla fine di questa settimana invece uscirà la terza parte dal titolo Rapid Eye Movement. Ci sono 11 brani, copertina curata dal famoso Travis Smith. Musicalmente vengono descritti come un incrocio tra gli Opeth, Anathema, Porcupine Tree, e lo scorso giugno hanno suonato anche di supporto ai Dream Theater per 7 date in Europa. Si chiamano Riverside, appunto, dal nuovo Rapid Eye Movement. Li ascoltiamo con Cybernetic Pillow. Last time I made you up, you looked so bright. I was about to believe in angels. Searching my lucid dream came up again. Pictures of your imagination, feel the pain. I'm not afraid. so bright. I was about to believe in angels. Dai polacchi Riverside con le note della loro Cybernetic Pillow alla nostra ungherese Claudia che arriverà tra pochissimo, quindi ciò vuol dire che siamo arrivati al termine anche per questa sera del nostro spazio di Hard and Heavy. Un ringraziamento va come sempre allo sponsor Mariposa Dischi Corso Lodi numero 1 a Milano, al nostro autore Simone, a voi che mi avete seguito. Ricordo la possibilità, l'opportunità di poter riascoltare in streaming tutti gli appuntamenti di Hard and Heavy collegandovi semplicemente al nostro sito www.radiorockfm.com. Un grazie quindi a voi, ci ritroveremo quando? Beh, domani sera, sempre su Rock FM.